Realmente noi consigliamo comunque l'installazione di un 5 casse, in quanto comunque riesce a far girare meglio il sonoro dentro l'ambiente, a ricreare meglio sia il cinema che a livello musicale, a dare un sonoro più omogeneo dentro tutto l'ambiente. Si scelgono le casse o la soundbar? Di norma si scelgono le casse, perché comunque per un'installazione di una soundbar richiede appositamente comunque o una tipologia di mobile o comunque un'installazione a parete. Sembra che la scelta sia orientata molto all'estetica. Sicuramente l'estetica ha il suo peso, in quanto comunque il televisore è più sottile e dà più design, di conseguenza anche l'impianto comunque deve seguire lo stesso design. Noi consigliamo sempre anche di magari andare sulla stessa marca sull'impianto, tale sia da avere un vantaggio dal punto di vista del telecomando, tale che il telecomando del TV piloti anche l'impianto. Allo stesso tempo, comunque, solitamente il design degli impianti riprende quello del televisore. Che informazioni portarsi da casa, come provare gli apparecchi. La cosa migliore è sapere mediamente l'ambiente in cui deve essere installato, tale appunto da poter sapere quante casse si possano installare, la potenza dell'impianto che serve per appunto adattarlo al meglio al suo ambiente. Poi ovviamente di solito si richiede sempre sapere se vuole un prodotto più design o più qualitativo. Ma si riesce a coniugare design e qualità del prodotto? Si riesce, ovviamente i prodotti che danno sia qualità che design sono comunque solamente delle fasce di prezzo un pochino più elevate. Un tempo si parlava molto di effetto surround. Più che l'effetto surround, la gente cerca di integrare quello che è l'impianto cinema con l'impianto stereo. Poi, ovviamente, c'è la persona a cui piace proprio l'effetto cinema e quindi cerca un tipo di impianto a 5 casse, tale appunto che il cinema sia reale. Il 2 casse non sempre riesce a rendere al meglio. In alternativa ci sono i diffusori anche per l'iPhone. Sono molto utilizzati, in quanto comunque permette di ricreare con un piccolo apparato un tipo di impianto stereo per amplificare un ambiente pure di grandi dimensioni. E la diffusione nelle varie stanze della casa contemporaneamente non usa più. È difficile trovare la persona che richieda comunque ancora la filodiffusione dentro casa, perché comunque prevede un'installazione molto più complessa. Comunque questi apparati portatili permettono, senza alcuno sforzo, di avere la propria musica sempre con sé. Sicuramente un vantaggio è di avere una filodiffusione soltanto con un PC e una cassa singola. E sui nuovi stereo ci sono difficoltà nella lettura di tutti i file? Il 90% dei file vengono riprodotti, anche perché si parla comunque di file MP3 di varie qualità. Quello è il più richiesto. Ma oggi le cuffie in casa si usano ancora? Le cuffie senza filo comunque sono un prodotto molto venduto. Quella che non si utilizza molto è la classica cuffia a padiglione, soprattutto se col filo.